E finisce così con un suono di una massa che succede ad esempio quando stacchi male il jack. Questo brano di Bebo nel disco, anzi in uno dei 5 dischi usciti prima della loro partecipazione a Sanremo dello Stato Sociale, che questa sera apriranno la rassegna di Nova, questa rassegna appunto in un'arena estiva vicino, di fianco al TPO, nello spazio Dambo, e dove lo stesso TPO, l'Estragon, il Co e Dambo stessa e anche il Robot hanno deciso di fare questa impresa per far suonare anche artisti internazionali e nazionali, e beh, insomma, per aprire la serata appunto hanno giocato in casa con lo Stato Sociale in un concerto che è già sold out. Noi siamo al telefono con Albi. Ciao Albi. Ciao Curru, ciao a tutti gli ascoltatori. È un piacere, è sempre un piacere essere qui. come state intanto? Stiamo abbastanza bene, un po' accaldati, ma quella credo che sia una condizione comune di chi abita a Bologna in questi giorni. E stiamo bene, emozionati, perché l'ultima volta che abbiamo suonato a Bologna è stato 3 anni fa, in Piazza Maggiore, tra l'altro, e quindi abbiamo un po' quel friccicorio delle grandi occasioni che ci mancavano da un po', e siamo contenti di poter suonare finalmente nella nostra città. Certo, tra l'altro era sempre giugno, però un po' prima, se non sbaglio il 12 o il 13, una cosa del genere. Il 12, vero, che è anche il mio compleanno, quindi me lo ricordavo. Bravo, ti ricordi il tuo compleanno, bravo. Esatto, no, infatti, però era meno caldo sicuramente. Sì, era meno caldo, ma anche la situazione era meno tesa in generale, non c'era tutto questo alone di sfiga causato dalla pandemia. E quindi diciamo erano altri tempi, era un'epoca pre-colombiana, pre-pandemica, non ci aspettavamo tutto questo. E invece adesso sì, abbiamo quell'emozione come quella volta, però tutta un po' diversa, tutta un po' che speriamo che vada tutto bene, siamo un po' come se avessimo attraversato 10 anni in 2, e invece vai, però sarà una figata, anche se le persone sono sedute, anche se gli ingressi sono contingentati, cercheremo di fare il nostro solito macello al meglio possibile, senza fargli troppo alzare, perché sennò poi si lamentano, non quelli che sono seduti, quegli altri che li controllano che si alzano, sono un casino. Esatto. Però dai, ci proviamo. Sarebbe brutto se manganellassero gli spettatori. No, non credo. Poi è un nostro concerto, cioè, oddio, avrebbero altri motivi forse per farlo, ma ecco, cioè dovrebbero prima manganellare voi. Esatto, e poi... comunque per mettere le cose in chiaro, e poi dopo Bene, ma insomma, dicevi che siete emozionati, ma dopo Sanremo avete già suonato da qualche altra parte in questi scampoli che si sono aperti, o proprio, come dire, Bologna è il luogo dove tornate proprio su un palco? No, abbiamo suonato a Milano il 12 giugno, che è il tuo compleanno, auguri. Grazie. A Milano, al Castello Sforzesco, è stata la prima. Cioè, di solito quando si fanno questi tour, no, si organizza una data zero in un posto un po' sfigato, un po' così, per provare il concerto, no? Esatto. E quindi noi abbiamo suonato a Milano, al Castello Sforzesco, davanti a 1000 persone, così, come prima data. Infatti, ci siamo divertiti molto, però abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, che sono tipici della data zero. Stasera invece diciamo che è la data 1, quindi i problemi tecnici saranno sicuramente risolti, ma è pur sempre un concerto dello Stato Sociale, quindi insomma sbaglieremo molte note. Però potete dare la colpa ai... No, adesso ovviamente no. No, ma quello è la nostra, una caratteristica. Rivendicate. Cioè, a un certo punto, se è all'ultimo pezzo del concerto non abbiamo sbagliato ancora una nota, un po' ne dobbiamo sbagliare, perché il pubblico se l'aspetta. Insomma, sì, se no se ne vanno via delusi, insomma. Esatto. Non hanno sbagliato niente, ma dai. Non li riconosco più. Altrimenti pensano che abbiate suonato in playback, è questo? No, ma non siamo mai, no. Senti, ma ci sono cosa proporrete questa sera? Perché, come dicevo prima, cioè avete fatto sta follia, non siete stati i primi nella storia, ma forse in Italia i primi sì, a fare uscire 5 dischi, poi andare a Sanremo. Cosa ci dobbiamo aspettare per quei pochi, no pochi, insomma sì, relativamente, che hanno comprato il biglietto, perché appunto il concerto è sold out? Allora, per quei pochi 1000, sono 1000 esattamente, proprio precisi, si possono aspettare un po' di canzoni da questo ultimo lavoro che ha tentato la musica italiana, dove abbiamo cercato di pescare in modo equidistante dai 5 dischi per non fare torto a nessuno tra di noi, sennò poi ci lamentiamo e ci ingelosiamo. e poi molto anche della discografia precedente, quindi diciamo un equilibrio tra le due cose, essendo una situazione particolare, quindi con le sedute, come dicevo prima, abbiamo riarrangiato il concerto in un modo un po' elettroacustico, diciamo così, cercando di far venire fuori molto di più le canzoni rispetto allo spettacolo, diciamo, magniloquente o super esagerato che a volte ha contraddistinto le nostre produzioni, anche perché quest'estate andare in giro è complicato da un punto di vista tecnico ed economico. Noi andremo, tutto il tour lo facciamo con la metà dei tecnici rispetto all'ultimo tour che abbiamo fatto, sarà sia per una questione appunto di economie e per una questione di produzione, quindi abbiamo cercato di ricostruire da zero, no? Di recovery, fare un po' di riabilitazione al live, asciugando molto gli arrangiamenti e cercando di ripartire dal grado zero dello stare assieme, quindi saranno anche molte cose acustiche per cercare proprio di dare quel senso di riunirsi e di riabilitarsi al live. Certo, ecco, il tema, come dire, l'hai toccato seppur tangenzialmente tu, però riguarda ovviamente anche quello che i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo hanno vissuto in questi due anni, anno e mezzo, insomma, delirante. Tra l'altro tu li hai anche rappresentati con una squadra che ha giocato al torneo No Border degli Xunt Leones. Insomma, come lo vedi il futuro di questo mestiere? Non tanto il vostro, degli artisti, ma anche di chi poi sta lì a montare, smontare i palchi, fare stare dietro al mixer, le luci, eccetera. Ma è un mondo che era già in difficoltà pre-pandemica e la pandemia l'ha decisamente ridotto ai minimi termini, sia come aspettative, sia come umore, sia come economie e possibilità lavorative. Quindi in questo momento si fa quello che si riesce a fare proprio per dare fare un primo passo verso la ricostruzione di un mondo che speriamo si ricostruisca in un modo diverso rispetto a come era prima, quindi con più tutele e soprattutto riconoscimento sociale del lavoro che viene fatto sia degli artisti ma anche dei lavoratori dello spettacolo, perché questa è stata una dei più grandi scogli, una delle più grandi evidenze che sono venute fuori dalla crisi, ovvero che in molti non pensavano neanche che ci fosse così tanto lavoro dietro, in molti non considerano un lavoro vero o dignitoso quello che facciamo noi, così come quello che fanno tutti i nostri collaboratori, e quindi ricostruire quella dignità e quella rappresentanza sarebbe una cosa fondamentale. Noi chiaramente da un punto di vista di comunicazione e di esposizione mediatica ci spendiamo, è quello che possiamo fare come artisti di un certo livello, diciamo così. Poi per il resto deve essere recepito il messaggio, non solo bravi che parlate di questi temi, no, bravi chi lavora in questo campo deve essere tutelato, difeso e riconosciuto come tutti gli altri. Certo, ecco, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lascio insomma tornare alla concentrazione pre-concerto, che riguarda insomma voi Regaz, voi cinque. Non fate solo musica, scrivete libri, fate riviste, fate anche programmi radiofonici, anche in altre radio. Insomma, lo fate perché vi annoiate o per cosa? No, siamo incontinenti, abbiamo questo problema, cioè non ci teniamo niente proprio, non riusciamo, ci escono le cose dal corpo e noi non riusciamo, però siamo giovani, succede in anzianità di solito questa cosa, non è successa fin da subito, purtroppo non riusciamo a tenerci dentro le cose, le emozioni, cioè confessiamo tutto, siamo proprio un libro aperto. E no, vabbè, che non essendo dei veri e propri musicisti nel senso canonico del termine, abbiamo sempre avuto passione per la comunicazione, l'arte in genere, e quindi avendo la possibilità di sperimentare tante cose sarebbe un peccato non farlo, quindi lo facciamo. Poi in alcune cose siamo più bravi che in altri, sicuramente, non dico quali perché non lo so, però sarebbe un peccato non divertirsi e non provarci. Ma hai ragione, hai ragione. Allora adesso ci lasciamo con un brano che era nel tuo disco, che a me piace tantissimo perché secondo me ha un ritornello azzeccato che più che i partiti che ci sono adesso interpreta il sentore, come dire, la sensibilità popolare, che è sesso, droga e lavorare. Quindi, ottima scelta. Grazie mille Albi e insomma merda per questa sera. Tanta merda, grazie. Radio Città Fuggito, ti amo. Ciao. Ciao. Ciao.